Ciao Pronti? Pronti, pronti? Pronti, prontissimi. Pronti. Allora, stiamo trasmettendo. E abbiamo un grosso problema. Che non abbiamo alcol. Bravo. Siamo soltanto dotati di mezza bottiglia da 50 centi. Cosa, una Tre Orsi? Ah no, Best Brau. Della famosa famiglia dei Brau. C'è la Sitz Brau, la Sitz Brau, qualunque cosa Brau. E questa bottiglia di mezzo litro è già a metà. E siamo in due. Quindi sono 250? ML, OCL, CL, no, ML, cioè, Embark. ML chi è? Una siringa, una zicca, una mandarina. Però fra poco ci possiamo fare di vera. Infatti. Quindi se avete qualche cosa da iniettarsi di vera, ce la portate. Noi saremo ben grati di questo. E basta. E basta. Hai detto questo era tutto quello che avevamo da dire. Noi siamo contenti che siete stati con noi in questa ora e mezza di trasmissione. Chiunque voi siate. Ma noi non ci interessa. Comunque siano i vostri gusti sessuali, sui dolci. Comunque, diciamo, sono fatti vostri. Perché no? I gusti sessuali sui dolci è molto importante. Sì, diciamo che ad esempio, scopare su un babà, voglio dire, ha un suo. Cioè, devi essere veramente. E ti dirò. Certo, quella parte alcolica del babà che può inebriare, quella con la panna, si possono fare varie cose. Sì, il problema è che l'alcol a contatto con alcune zone non è molto indicato. Perché? Provalo. Guarda, in questo momento sento che sono ignorante in questa materia, e però dal tuo sguardo mi sovviene di dire che voglio restare ignorante. Non so. Tu da bambina mi hai provato a giocare col dopo barba di tuo padre? Partiamo da questo. Tuo padre si faceva la barba. Sì. Si fa la barba. Cioè. Sì, ma non ho mai messo il dopo barba nelle palle. Anche perché ci sono dopo barba senza alcol che possono anche soltanto infestare. Sì, infatti parlavo di quando tu eri piccolo tanto tempo fa, quando non c'era il dopo barba senza alcol. Ma c'erano i babà. Ma c'erano i babà. I babà ci sono sempre stati, sono sempre esistiti. Tu hai mai visto un babà ritornare uomo? Cioè, più che altro un babà ritornare bottiglia. Bottiglia. No, effettivamente no. Da qui quindi, si capisce che il babà non viene dalla bottiglia. Che è anche logico come cosa, in effetti. Cioè, tutto fila liscio, come un babà. Sì. Ma il babà non è liscio, è rugoso, spugnoso soprattutto. Sì, spugnoso, rugoso non tanto, cioè. Ed è ruvido in questo senso. Ruvido. In quanto spugnoso. Sì, possiamo dire ruvido, di una certa morbidezza. Diciamo che è un corpo cavernoso. Che si cunicoloso. Che si riempie di liquido. Per poi aprire la porta e mi schizzare. Che cos'è? Un brufolo. No, un babà. Al solito noi con YouTube siamo proprio. Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile. Voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là.

non abbiamo niente. Si sta appoggiando su Radio Cupe, che si appoggia su Radio Matria, che si appoggia su lui, sulle sue chiappe. Questo significa che tu hai delle grandi chiappe. Sì. No. E ciò effettivamente c'è. Questo, lo sanno le seconde linee. Chiunque linee. Voglia venire a vederli in questo luogo X di cui non fermo menzione, per sì, i sopracitati motivi. Sì, perché oggi stiamo trasmettendo da un insolito luogo. Infatti esatto. Siamo in un'insolita formazione, con insoliti argomenti, con insolite. Ma anche perché questa non è Radio Cupe, ufficialmente, quantomeno. È una puntata siamo anarchica. Siamo infiltrati anche dentro Radio Cooper. Questa è una puntata anarchica, io la chiamerei così. Una come canzone anarchica dei... È una puntata anarchica. Oddio, ci sono tante eccezioni. È come i comunisti, no? Ce n'è tanti tipi, di tante... No, ci sono... tanti tipi che si chiamano comunisti. Poi vabbè, io diciamo non entro nel merito degli altri, ma penso a quello che sono, penso di essere io, cioè io non dico tu sei o non sei. Io, tu sai quello che sei tu e che non sei tu. Esatto. Che mi sembra più onesta come cosa. Sì. È vero. Visto che io posso sapere se ho fame oppure no, e quindi se devo rubare oppure no. Più o meno il concetto è lo stesso. Quindi concetto fa il doppio gioco. Concetto sì, fa sempre il doppio gioco. Ma anche triplo, quadruplo, secondo. 6 miliardesimo, visto che siamo circa 6 miliardi, ognuno la pensa un po' come. Cioè le opinioni sono come il buco del culo, ognuno c'è il suo. E come dice, si dice in gergo, ognuno si ascolta caso ma. Capito? Okay. Detto questo, stavo dicendo che questa è una puntata anomala, perché il fattore non è anomala, è anarchica. Una puntata anarchica, siamo il fattore senza è... nome, siamo da senza padroni, perché non da quale bisogno è nata questa puntata dallo anarchica. Spontaneismo, appunto. Dallo spontaneismo, questo spontaneismo da cosa è nato? Appunto grazie a rubare. No. È per il rubare. No? Dici per il rubare spazio? Non stiamo rubando spazio a nessuno. Questo, cioè, Radio Madre che cazzo ci trasmette? A parte Radio Cupe. È vero. No, vabbè, c'è anche... ogni tanto ci sono anche gli studenti. Che ultimamente, paradossalmente, sono più frequenti dei dugonghi. Però, va bene, questo è un altro discorso. Però la questione non è tanto questa, no, alla fine si tratta di pancia, cioè... E tu di pance... Me ne intendo. La questione è, volevamo trasmettere, lo stiamo facendo. Sì, perché ogni tanto è bello fare questa cosa, cioè ti viene il pititto di fare qualcosa e la fai. Sì, così, detto, in tranquillità, senza problemi. Me l'ha suggerito basta anche il mio rosso. Basta avere qualcuno che sa mettere mano alla strumentazione. No, quello si trova, dai, non sono strumentazioni complicate. Secondo me, se vuoi fare una cosa, trovi il modo di fare una cosa. Infatti io voglio fare la sigaretta e ho trovato il modo di fare la sigaretta, prendendo il tabacco in mano. Allora, per non disturbare chi forse... un giorno ci ascolterà, visto che in questo momento forse non ci sta ascoltando nessuno. Ma noi sappiamo benissimo che non stiamo trasmettendo per voi. Al massimo, se ci siete, ci può fare soltanto piacere. Sì, ma infatti siamo assolutamente spontaneisti anche in questo. Cioè, ci volete ascoltare, ci ascoltate. Non ci volete ascoltare, non ci ascoltate. Potete ascoltare questo tipo di canzoni che passiamo, se volete, se non volete. Visto che abbiamo la pretesa di conoscere un po' di musica e quindi di riuscire a passarne un po' anche carina. Non dico bella, però carina. Sì. Questo, ecco, questo pezzo non so se a me non mi fanno impazzire, però ci sono tante persone a cui piacciono, alla fine non sono cattivi, va, sono soltanto un morti. Po' morti. Non sono cattivi, sono morti. E sono tre. Però nella loro morte sono allegri. Siamo là, la compagnia dei gatti neri. compagnia dei gatti neri. Lo Stato non ci fermerà, non prima del trapasso. Ridiamo la miseria, bastoni sulla schiena, diventiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari. Siamo là, la compagnia dei gatti neri. Ci faranno stare zitti mai, viagoleremo fino all'inferno. Scenderò in barriera, nella lotta insieme a noi, per difendere gli ideali dei gatti rivoluzionari. La compagnia dei gatti neri. A tanta gente piace questo gruppo, ma a me non dice un cazzo. Sì, non, vabbè, non, c'è da dire intanto non è questa, Alessio, senza dubbio. C'è da dire intanto che questa è una cover, non è una loro canzone. Cioè, dire che non è una delle loro canzoni più belle. Anche tu, se tu vai a fare una cover di una canzone, vai a prendere la cover. Se già fai musica di merda, vai a prendere la cover bella, almeno così ti elevi un po'. Dai, non fanno musica di merda. I Tre Allegri Mazzorti non fanno musica di merda. Fanno musica allegra. Ora non esageriamo. Cosa fanno musica lei? Anzi, sono uno dei pochi gruppi che sta anche in un certo senso al passo coi tempi, nel senso che si evolve. Per questo. No, che si evolve, che diciamo si contestualizza. No? Cioè continuano a fare musica. Nonostante facciano musica di merda. Per quello che sono, non fanno musica di merda. No, non esagerare. E comunque. Diciamo la canzone era per il tema, non tanto per il resto. Quindi il tuo era il messaggio insito in se stesso. Non so cosa tu voglia dire, però sì. Neanch'io, però ci sta bene. Sì, e diciamo queste cose quando non ci ascolta nessuno sono anche facili da dire. Sono anche meglio che non. Quindi se c'è qualcuno che sta ascoltando, staccate per favore, perché se no ci vergogniamo. A meno che voi non avete una bella bottiglia di vino o di qualche alcolico interessante e volete venire a portarcela e dopo andarvela a fare in culo. Però sono punti di vista, volevi, piacevi, doveri. Doveri. Nel frattempo che il nostro amico Unghio sta girovagando su YouPorn qua per cercare il prossimo pezzo, la domanda è questa. Perché non va a prendere con gli ultimi spicci che abbiamo una birra sotto? Perché non c'è un sotto, come non c'è un sopra, come non c'è un dio e non c'è un re. Se l'hai mangiato il pedone? Sì. E allora, perché questo pedone non ci porta una birra? No, la questione è come ha fatto a mangiarsi il re senza che finisse prima la partita? Vuol dire che è uno scaccomatto. Dov'è? Si è messo davanti. Appunto, e quindi doveva finire la partita. E quindi non lo mangia, re. Esatto, il re non lo mangerò mai. È vero. Cioè, ogni volta prima, no, vabbè, niente, lasciamo stare, proteggiamolo. Scacco matto. Proprio che matto. Ah, ti abbiamo arrestato, cioè i re li arrestano solo. Sì, e non si possono uccidere. Gli altri muoiono. I generali, non si possono uccidere, si uccidono soltanto poi i profughi che vanno a rompersi il culo per difendere appunto il re. Però il bello è che un pedone può mettere sotto scacco un cazzo di re. Ma soprattutto si può fottere la regina. Tutto. Lato lui. Questa canzone ti fa... è un inedito. Addirittura. Nel senso che in realtà è stata registrata anche un po' male, cioè la qualità audio non è pazzesca. È stata registrata quindi dopo? Dopo che è morto? No. Sennò come faceva a cantarla? Poi si era registrato qualcosa prima, quindi l'hanno accucchiata dopo. Come quella canzone di Queen. È registrata quando era vivo. Chiaramente l'ha registrata quando era viva, vivo. Però l'ha registrata a casa col pianoforte e un microfono. Cioè lui ha ragazzi suoi, ha detto registriamo chi dovrebbe fare la testa. Sì, più o meno sì. Che poi era quello che faceva anche per le altre canzoni, però per le altre canzoni le registrava in studio. Quindi un pochettino con la qualità leggermente migliore, esatto. Tutto qua. Sì. Diciamo la differenza fra questa e le altre sue canzoni è questa, ma sue di chi? Di Tano. Tano Badalamenti, Tano seduto. Ma no, questo è Tano addito. Non sapevo che facesse canzoni Tano Badalamenti. Eh sì. Ah, i 100 poi... passi, ah, me la ricordo. Che poi canta. Era sua. Sì, certo. Ah. Comunque, il nostro Tano non è il Badalamenti, ma il Gaetano. A me dispiace divertirmi molto in questa cosa. Eh sì, perché io senza Dio... No, non è questione di Dio, è che mi dispiace che tu comunista sia finito in una... Io non so, io sono socialdemocratico. Questo secondo i tuoi compaesani, quantomeno. Secondo altri compagni. E beh, se arrivano certi compagni di fondazione, di commissione, mi chiamano vivamente compagno, forse è vero che sì, sono stato democratico. Qualche domanda dovresti farti. Sì, decisamente. Sì, direi proprio di sì. E quindi, fatti qualche... Forse sei anarchico. Ma, forse nei miei sogni. Nei tuoi sogni d'anarchia. Sì. Che sono più o meno come quelli di Rino Gaetano. E lei viveva nei suoi sogni e la sua voglia di imparare. In fretta il metodo inglese, cucinare, fare l'amore. Lei impazziva fra le ricerche di cosmesi, primer e maquillage. Le letture pavese, Ginsberg, De Gregori e fiumi di latte legato alle tradizioni. Ma io l'amavo e lei amava me, nei suoi sogni ritrovavo anche un po' di me. E lei scopriva ogni giorno il valore del denaro e le conseguenze. Toccava il cielo con un dito e sanava le ferite con la rivoluzione. Ancora poeti, un nuovo sound e le balere e forse amanti. E il 68 raccontato e le conquiste. Le canzoni che dicevano oh, oh, oh, io l'amavo e lei amava me, nei suoi sogni ritrovavo anche un po' di me, le bugie, le poesie, i racconti è la paura, l'inflazione, le battaglie, l'egoismo della razza, la stagione dei colori, un bicchiere le memorie, vecchi libri e dischi no, un sudario e mille storie, le panchine dei viali e le strane fantasie, le bugie, le poesie e le strane cose che stritolavano il passato, il feudalesimo e l'anarchia, i sogni, l'anarchia, i miei sogni, l'anarchia. Io l'amavo e lei amava me. Non si aveva un cazzo, quindi... Non ai tempi del colera? No. No, ma mi spaventavo delle malattie. Così non dobbiamo aspettare 57 anni. Eh beh, direi, perché sì. A meno, se proprio dobbiamo farlo, mentre siamo un pochettino ancora... Ci togliamo studente. Mentre siamo ancora abbastanza prestanti. Prestanti. E anche prestanti, perché diciamo, forza, dai. Prestante. Vabbè, tu magari no, io un po' più di te forse sì. Ok, allora non usare questo plurale maiestatis. E invece io uso il singolare, tu, proprio tu. Vediamo se hai studiato. Cosa pensi dell'anarchia? Dipende. Da cosa? Dal fatto che non ho studiato. Vabbè, questo non... Dipende da cosa intendi per anarchia. Se per intendi... non ci siamo capiti. Non ti sto dicendo cosa pensi di quello che io intendo essere l'anarchia. Secondo te cos'è l'anarchia? L'anarchia è lo stadio finale di un decostruttivismo dei poteri, delle gerarchie. Mi hai scioccato comunque, però... Cioè, fondamentalmente è questo, secondo quello che immagino io. Cioè, uno stadio finale in cui ogni forma di organizzazione a livello anche organizzativo a scala venga eliminato. Perché? Perché? Beh, intanto che... si dimostra da sé che l'organizzazione a piramide della società non funziona. Quindi sarebbe auspicabile in un vivere comune eliminare appunto questa disparità che porta questi problemi che oggi vediamo. Quindi sostanzialmente tu lo, cioè, da quello che stai dicendo tu la ritieni una cosa auspicabile? A livello finale sì. Però a livello intermedio? A livello intermedio si deve passare dal comunismo. Che? Sono socialdemocratico, quindi non posso saperlo. Però se sei un socialdemocratico questo discorso cade. Anche questo è vero. E quindi in realtà cosa penso? Quindi in realtà l'anarchia non esiste come concetto già in sé, cioè non come cosa questo possibile, concetto utopia, eccetera. No, concetto non esiste, il tanto vituperato concetto, poi vituperato te lo cerco. Il concetto, ecco, digli il concetto che poi ci porta una birra. Allora, concetto, io so che sei ma tu, noi abbiamo un ascoltatore, infatti sappiamo che sei tu, concetto. Intanto, perché non ti manifesti in qualche modo? Che tipo una birra. Tipo una birra, anche una bottiglia di vino, anche solo un bicchiere, anzi due, perché siamo due qua. Se vuoi portare tre bicchieri, uno lo bevi tu. O anche no. Quindi, concetto. Concetto la qualunque. Questo è il concetto. La domanda è concetto. Per chi ci sta ascoltando, perché abbiamo fatto spam su Facebook, già hai i tuoi problemi. Perché usi Facebook? E poi perché ci stai ascoltando. Quindi, cioè, raddoppi, cioè, è una combo. Non so perché se tu pensavi che questa era una di quelle puntate divertenti? Per me era. Fosse. Fosse che era. Fosse che fosse ancora già. Ok. Quindi pensavi che fosse, come l'intellettuale qui mi corregge, una di quelle puntate divertenti dove si dicevano tante cazzate divertenti, appunto, che le cazzate continuiamo a dire, ma forse non sono divertenti come tu ti aspettavi. E quindi la domanda è, forse è ironia quell'umorismo triste quasi inglese? No, non c'entra, noi non siamo inglesi, però comunque non facciamo sesso, quindi non capisco questa cosa. Perché l'inglese fa, cioè, si fa sesso. No, non lo so, niente sesso, siamo inglesi. Vabbè, niente, con chi sto parlando io? Con concetto. Va bene, io voglio premiarti. Grazie. Tu mi hai detto cosa pensi. Allora io ti dico cosa penso. Dell'anarchia. Vai. Oh, Francesco Muzzi, viva, si gode e si lavori. Questo penso che non meglio sia. È un pensiero molto profondo. Che io non ho compreso una parola di quello che hai detto, però molto profondo comunque. Che in comune si viva, si gode e si lavori. Cosa non hai capito di questo? Tutto. Di sì. La traduzione lentinese, sta detto, e allora io posso capire un po'. Assemi a ma vivi. Futtiri e ciao a chiari. Ciao, si capisce. Si è capito. Decisamente. Ma continuiamo. Come traduzione, secondo te posso fare? Sì, se è quello che hai detto prima, sì, altrimenti può essere che tu hai detto altre parole, tanto io non potevo verificare se dicevi veramente. Ah, cioè, non capisco. Che in comune, comune. Si viva, si goda e si lavori. Ok. Sì. Non è che io abbia una dizione poi così. Sì, ma il tuo modo aulico di esporre queste parole mi ha tratto in inganno. Ma è l'anarchica maniera. C'è mai fatto caso che di solito gli scritti anarchici hanno uno stile quasi riconoscibile a colpo d'occhio? Così. Sì, proprio Stenzel. Ah? Non le scritte. Gli iscritti, i volantini, i documenti. Ebbè, come tutte le altre scritte che hanno comunque un. Cioè, tu vedi un volantino e conosci un po' l'andamento delle varie associazioni che sono in giro in quel luogo, riesci a capire che sono di quel ramo. Di Como. Che volge a mezzogiorno e più non dimandare. Ma questo era un mix anche questo anarchico volendo. Sì, io tu mi lasci senza basito. Parole quasi basito quasi dico mi lasci senza parole appunto riuscendo senza parole non so cosa dire e allora io mi affiderei alla tradizione. La tradizione, che la tradizione è importante, come ci insegnano i leghisti, che non però, ne hanno. No, aspetta, no, il loro problema è che trasformano la tradizione in religione. Perché l'esperienza, le tradizioni anche sono importanti, secondo me. L'esperienza però, è importante. Sì, come sappiamo, lì c'è l'esperienza, lì sotto c'è l'esperienza. E infatti noi ci siamo andati a rinchiudere. Purtroppo l'abbiamo capito. Però la tradizione non deve essere dogma. Acerrimo nemico degli anarchisti, il dogma. Sembra, io lo dice tu, la stessa cosa. Culo con culo. E allora, per andare a pescare la tradizione, abbiamo, cioè detta così, un coro sardo. Cioè che non che sarda in coro, ah. No, non è che si riuniscono un gruppo di leccatori di sarda e cominciano a cantare a cappella. No, non è perché questo. Perché cominciano a leccare a cappella e già c'è qualche cosa di dice ok, stiamo andando a sto punto, vabbè. Poi salutiamo ancora il nostro autoascoltatore. Autoerotista anche, probabilmente. Sì, che molto probabilmente si sta masturbando con le vostre voci. Non ti fa un po' schifo? A me no. Devo essere sincero. Direi che visto che non lo vedo, quasi quasi l'idea stuzzica. Cioè, però, quasi quasi mettiamo poi dopo la registrazione andiamo nelle nostre casette. Produniamo. Dopo la nostra venuta, sì. Cosa pensi di Dio? Non ho un'idea, però quelli che aspettano la venuta di Cristo, cioè un po' mi versione mi fa, anche perché la necrofilia non c'è mai è più di 2000 anni che aspettano la venuta di Cristo. Penso che Cristo poveretto il cuddio non ce la fa più, cioè non deve, no, basta, tagliala, togli l'anello, cioè no, l'anellino di gomma non hai mai. Un coro, va bene, dicevamo un coro sardo. un codo sardo che si procura de moderare. Procura de moderare è la canzone della tradizione sorda. Come il monaco. Cioè loro cantano, il monaco sardo, ma non sanno quello che dicono. Quindi Dio li perdonerà. Diciamo che anche qualunque cosa dicono li perdona lo stesso. Procurate, procurate, procurate moderare, barone da tirannia, chisino proprietà mia, torrate, voi torrate, ma torrate, voi torrate, ma la la la la la, torrate, voi torrate, torrate, da ben terra, ma declarata, declarata, declarare questa guerra, contrate da prepotenza, e cumita da pazienza, in giubo con la mancata. Ma il suo con la la mira chi su un attendente contra il debo in su fuoco, mirare chi non è gioco, chissà cosa andata vera, mirare chissà sa era, minetta la temporale, gente con si sta male, scultare sa che mia, procurare moderare, procurare moderare. La la la la la, procurate, procurate, ma procurate moderare, barone, oi barone, barone, tradina mia, chisino, provvida mia, torrate, dove torrate, torrate, dove torrate. La la la la la, no a prete rispone, a subo per un rosino, sino in mezzo cammino, sa rempella d'ampurato. Mi schia la descansato e non devo di più su, finalmente appunto su, su, si imbastu da napettare, procura di moderare, procura di moderare. La la la la la, procurate, procurate, ma procurate moderare, barone o imparone, barone, radina mia, chisino, propria mia, torrate, voi torrate, se torrate, voi torrate, torrate da ben terra. La la la la la, subo pochi in profondo, letargo si sepoltato, finalmente despertato, sabizza che si incatena. Chi è sta soffrendo vena, desindolenza antica, veuto le cine mica, buona filosofia, procura di moderare, procura di moderare, procura. La la la la, procura di procurare, ma procura di moderare, barone o i barone, barone, radina mia, chisino, profida mia, torrate, roi torrate, ma torrate, da ben terra, ma declarata, declarata, ma declarata. Già sa guerra, la la la la, prova camisa dell'ira da e me la botta pro niente, esclavare eternamente tanta spopolazione e miliardi di persone, servini a un uditano, povero genere umano, povera guardate mia, procura di moderare, procura di moderare, la la la la la, procurate, procurate, ma procurate moderare, barone o il barone, barone la tirannia, chisino profida mia, torrate, voi torrate, ma torrate, voi torrate, ma torrate, voi torrate. La la la la la, torrate da ben terra, ma declarare già sa guerra, contra te la prepotenza, e cumita da pazienza, in su può la mancare, barone o il barone, barone o il barone. Procurate e moderare, baronessa di tirannia, chi si non provvida mia torra de zappe in terra. Forse tu non hai ben capito il testo. Il significato di insico. Recondito. Mi piace recondito. Mi piace recondito. Mi piace come parola, non so il significato. Sì, il significato recondito di tale testo mi sfugge. Vabbè, non ma è tu... molto complicato, io l'ho cercato, perché chiaramente neanche io l'avevo capito all'inizio. Ah. Non essendo sardo e manco sordo. Però conoscendo bene la sarda. Conoscendo bene la sarda, ho capito che devo andarmi a cercare il testo. Perché anche la sarda bisogna andare a cercare. Non è facile manco cliccare la sarda ultimamente. Anche perché si trova in un'altra isola. Sì. Però ti dico, cercare una sarda. E diciamo che il testo sostanzialmente dice: mio caro tiranno, cerca di calmarti, perché sai com'è, a volte il popolo si incazza. A volte. Sì. A proposito di tiranno, ci hanno... Ah, un 5 minuti di canzone che dicono tutta questa cosa. Ripeto, no, se vuoi te lo cerco e ti no, no, ti no, leggo no. Tutta il dici testo. Questo è il succo, questo è il succo. Anche perché comunque per lo stile della canzone, cioè, il ritornello ad esempio è fatto a parti, cioè la prima parte del ritornello all'inizio, poi la seconda parte ritorna sempre ciclicamente. Vabbè, che cazzo devi capire? dittatore, definizione di dittatore. Capo di una nazione che preferisce la pestilenza del dispotismo alla peste dell'anarchia. Questo è un lemma preso dal Dizionario del Diavolo del 1911 di Ambrose Bierce. Penso sia francese, non so da come è scritto, penso che sia francese, in realtà non ne ho idea. Neanch'io. Lo cercheremo e lo scopriremo. Comunque ringraziamo il buon gustaio che ci ha deliziato di questa chicca. Ti metti le cuffie, ecco, così finalmente ascolti quello che diciamo e sentiamo. E ti ascoltavo lo stesso. Ritorni, cioè, ti ascoltavo lo stesso. Infatti stavi parlando sopra la canzone nonostante non fosse finita. Non è assolutamente vero, perché tanto la diciamo zanzara ce n'è più dura. Ma tranquillo, sono tutte per me, non ti preoccupare. Questa cosa già mi vincuola enormemente. Comunque perché abbiamo scelto questa canzone? Perché il motivo è semplice, non lo so. Ma del resto c'è qualcosa che io so. Sto dimostrato ampiamente che io sono una persona ignorante. Sai di non sapere nulla, però. E ciò già mi fa un non ignorante. Basta con tale affermazione, con tale consapevolezza del proprio io. Sendo qualcuno un saggio, quantomeno. Sì, ma dico tutti i singoli su saggio, ma. Nel senso che stai manzo. Me lo mangio in manzo. Sì. Ci sono queste differenze di locuzioni tra Catania, Lentini, eccetera, eccetera, che proprio ti bloccano. Anche da noi c'è di stai manzo, non va. Ah, anche da voi c'è. Eccetto. Allora l'avevi capito cosa volevo dire? Sì, l'ho capito. E sono voluto fare lo stronzo. Sì, ma... Procura di moderare, sa dire il mio. Addirittura. Sì. Ho preso zucchero, ma la stocca. Avanti, va. You say Texas, New York. It's Magnum, New York. Vuoi già sicuro di telefono? Va bene, a questo punto io direi 24 grana, canzone anarchica. Sa sta così tutta di te si su la vita rendere che ha messo su la vita chi non va bene. We'll be right back. me cerca da voglia ver e si che la gama tro e sulle fantasie non ci credo. Non ci credo. Se avessi stato così per tutta vita, potesse sulla ridere mi rendi, piangesse sulla fine ma capì. Va bene, non dicesse niente. Dai, che la cama fa più male. Di che stavo parlando? Ah, di anarchia. A proposito di anarchia, un libro che io vi consiglio di leggere è Metello. Di? Metello, di Vasco Bartolini. Chi è costui? Che è la storia di un ragazzo vissuto, diciamo, a cavallo del Novecento, fine Ottocento, inizio Novecento, più o meno mi pare, che sostanzialmente parla un po' della società in quel periodo, quantomeno in alcune parti d'Italia. Lui era un muratore e diciamo in un certo senso di una sorta di passaggio dalla tradizione più anarchica a quella più, non so come dire, socialista forse. Tu che lo sai, ne pensi? L'hai letto? No, non l'ho letto. Ma che cazzo mi consigli i libri che non hai letto? Io ascoltavo con estremo interesse le tue parole, pensavo, cioè, anche tu hai trovato sto libro in giro e hai detto ma perché non ne parliamo? Perché non ne parliamo? Parliamone. Secondo te, a te piace il nome Metello? Il nome Metello mi fa un po' compressione, sinceramente. Non lo so, Metello è un bel nome che senza sì, dubbio. Questo. Quindi già. Inizia alle L. C'è un flex, qualcosa, non capisco se non è il film nello. Sotto. Forse è il film, sì. Perché mentre noi parliamo, noi in realtà siamo venuti qui a disturbare una proiezione. Qui non diciamo dov'è. La proiezione non diciamo di cosa e non diciamo neanche che tipo di disturbo facciamo, anche se non siete stupidi lo capite da soli, anche perché in realtà è finito al contrario, cioè noi vogliamo disturbare la visione, in realtà sono loro che stanno disturbando la nostra trasmissione e quindi c'è qualcosa di incongruente, di molto anarchico in tutto questo. No. Non so. Quindi ci stai parlando di questo Metello? No, non era semplicemente così. Cioè io non svelo trame e tutto il resto. Vi dico, se volete leggere un libro carino, parla di muratori, bene, di muratori anarchici, socialisti, comunisti, eccetera eccetera, a cavallo del Novecento, leggete Metello. Leggete Metello di Vasco Pratolini. Lì c'è la R però. Alla fine te lo scrivi in un foglietto e glielo sbatti davanti alla commessa in libreria. Se trovi un commesso, glielo sbatti davanti lo stesso e lui lo devi sbattere dietro. obbligatoriamente. Oddio, non è che non puoi. Vorrei ma non posso. Verrei, verrei. Mi sembri abbastanza strano. Perché strano? Cosa c'è di strano? Non lo so, però dal tuo sguardo, che è l'unica cosa i nostri autoascoltatori non possono percepire della mia persona. Non è vero, però va bene. Al momento non la possono percepire. Sì, ma non è l'unica cosa che non possono percepire della mia persona. Non possono percepire la puzza che faccio, non possono percepire la mia presenza, diciamo, massiccia. Non possono percepire... L'unica cosa che possono percepire è la mia voce, il mio tono, la mia corretta dizione. Ma io picchi. Sotto c'è un bellissimo film. Bellissimo. Che ha 2 ore e mezza di palle. Vabbè, comunque. Beh, se pensi chi l'ha scelto. quando si accucchiano certe persone. Anche pensando a chi l'ha scelto, ho scelto la prossima canzone. E quindi, musica. Maestro. Cosa pensi di te, André? Secondo te, André, qual è il pensiero politico di André? Vediamo. Non l'ho studiato il pensiero politico di André. Ma soprattutto, che cazzo ce l'hai fatta? Infatti. No? Che dici? Perché ci sono quelli che dicono: ah, era narcoide, ah, non lo era. Non mi hai fatto un cazzo se lo era, se non lo era, se credeva in Dio, se non credeva in Dio. Sicuramente faceva delle belle canzoni con anche dei significati profondi. E cioè, penso che basta. Reconditi. Basta. Anche significati reconditi. Sì. Volendo. E questa è? Un matto. Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovskij malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappo alla pazzia. Ascoltato questa canzone, ce ne può fare qualcosa di quella, il pensiero, l'idea politica e tutte cose di genere? Secondo me no. Cioè, per decidere se essere d'accordo, cioè, Sicuramente era una bella persona. Beh, in senso lato sì, ti interessa, nel senso che per decidere se sei, cioè quello che hai detto tu, io ripeto le tue parole perché io non l'avrei detto così, per decidere se sei d'accordo. Qualunque cosa dico l'avete detto in modo diverso in realtà. Per decidere se sei d'accordo o meno, ce lo fai in base a quello che è il tuo pensiero, e quindi analizzi l'altro pensiero e lo raffronti. Che ancora si analizza? Qualcuno sì. Non io. No, infatti pensavo che per analizzare non è uno studio analisi. O perlomeno deve dare analisi 1, analisi 2, analisi 3. E visto che io analisi 3 non l'avevo, non sapevo analizzare. Io ho dato solo analisi 1. E quindi non sa realizzare. Non puoi realizzare. Oddio. È triste una storia senza alfa e serio. No, è triste il fatto che stiamo trasmettendo un film alla radio. Ma a voi sta piacendo questo film? A me molto, se devo essere sincero. Non lo so, io lo vedo privo di immagini in questo momento. Sì, è un po' piatto, un po' monotono, troppo blu, troppo basso. Basso, sì, proprio basso. È la parola chitarra, volendo. Vabbè, questa è fallito, scusa, era un aborto di battuta, non è uscita. Non è uscita la sua risposta, la mia battuta, per quanto di merda poteva essere, è uscita, anche se voi non la potete capire, ovviamente. Ma lui voleva darmi una risposta a tono, ma non ci è riuscito. Attonito, più che a tono. Concetto, parliamo con te. Concettino. Però tu non ci rispondi, concetto, perché? Cioè noi ti invochiamo, tipo, sei Dio, cioè ti invochiamo e tu non rispondi. Non esiste. Non esisti, neanche tu, concetto, a questo punto. Ma infatti prima eravamo arrivati a questa conclusione, il concetto non esisteva. Ma c'era Morgan che diceva se che se tu avessi una memoria storica. Memoria storica. Non mi ricordo che l'ho fatto stamattina, vai, la memoria storica. Cos'era che diceva Morgan? Morgan dice Zero non esiste. Renato Zero non esiste. Renato Zero non esiste. Quello è un augurio. Dice Renato Zero non dovrebbe esistere. Però vabbè, c'è. Aspetta, noi non giriamo. Sei sempre drastico tu. Dammi un sol buon motivo per cui dovrebbe esistere. Il triangolo. Con lui no, il triangolo no, non l'avevo considerato. Sì, ma il mélange à trois, cioè il mélange à trois, sì, che è un nuovo tipo di maquillage, che è una cosa colpa spartù. Stavo domando del cazzo su canale 5, che era così, no, non mi ricordo, l'alimento ha cancellato direttamente. Meno male effettivamente, canale 5. Sai, mi ricordo di quando ero fanciullo e... Stavamo parlando di cose serie, no? E parlando di cose serie... E infatti stavo zitto quando parlavo di cose serie. E parlando di cose serie, chi esce fuori? Canale 5. No, non esce fuori. Cioè, Canale 5 sì, esce fuori da questa stanza, non ne parleremo più. Ma perché noi siamo contrapposti... Ci siamo in un altro posto. Contro. E stiamo dicendo, parlando di cose serie. C'è una persona che è seria. Che? Che è lo zio Pippo che mi manca tantissimo. Porca puttana. E se lo zio Pippo o Don Pippo? Don Pippo ancora esiste, lo zio Pippo al momento dove mi manca. Ma quello zio Pippo. Che concetto, se tu esisti, se sei reale, manifestati con una bottiglia di reale, zio Pippo. Reale, se sei reale. No, reale no. Reale è morto. Ucciso da? Gaetano Bresci. Bravo. Sei legge. Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro. Mi guardo intorno nella casa del ladro, è tutto rubato, pure l'aria che adesso respiro con il fiato corto, è frutto d'un furto. Quando un ladro trova un ladro dentro casa non è mica contento. E difatti quel ladro mi vede e mi dice stai attento. Lui mi dice guardami bene, io non sono un ladro soltanto, io sono il padrone. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca memore di quel che ha visto. Che io mi muovo adesso, prima che sia mattino, nessuno spia mio passo sotto il cielo turchino. Ma io dico che suonare un sonaglio davanti a un serpente, io dico che pure il serpente, pure quello si pente e capisce che sputare veleno per tutta una vita non gli è servito a niente. Ma il padrone è una cosa diversa, è uno strano serpente. Il padrone è una cosa diversa, è una bestia curiosa. Lui comincia succhiando il latte da quando è bambino, ma poi succhia ogni cosa. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca memore di quel che ha visto. Che io mi muovo adesso, prima che sia mattino, nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Che difatti alla fine il padrone è una specie di ladro, solo che quando ruba il padrone non è mica arreato, e anche quando che viene arrestato il suo alibi regge, perché lui è la legge. Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro, e quel ladro mi dice che lui non è un ladro soltanto, ma neanch'io sono un ladro, gli dico, e così mi avvicino. Io sono un assassino. E così sotto il cielo turchino c'è un padrone di meno. Emanuele Filiberto di Savoia ha recentemente dichiarato che l'Italia è un paese pronto per una monarchia costituzionale. In considerazione di questa dichiarazione del principe, volevamo dedicare questa canzone a Gaetano Bresci, tessitore anarchico e uccisore di re. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca memore di quel che ha visto. Che io mi muovo adesso, prima che sia mattino, nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Tessitore anarchico e uccisore di re. Cioè questo qui stava negli Stati Uniti, a un certo punto c'è stato una repressione nel sangue di una, diciamo, una manifestazione, una... Allora questo se l'è pensata, tornato in Italia, trovato una pistola e durante un evento in cui era presente il re c'è andato, gli ha sparato 3 o 4 colpi di pistola, le fonti non sono concordi al riguardo, per quanto possa essere importante stabilire questo dettaglio. E poi si è fatto arrestare. Beh, diciamo che grande stile, va, cioè ammazzi il re e poi mangiare il dorme pagliato. Diciamo che se mangiare il dorme pagliato non lo so, perché comunque nel 1900 non so, la situazione delle carceri non penso che fosse migliore di quella di adesso, che comunque non è un granché. Effettivamente questo è vero, va, però a me... soprattutto insieme a lui poi hanno cominciato a prendere i suoi amici e quindi non andiamo neanche solo, va. Infatti almeno in compagnia, no? Diciamo un po' intanto capisco anche perché il tema della psichiatria, anzi dell'antipsichiatria, sia un tema comune a quasi tutti i gruppi anarchici. Esiste a questo punto alla luce di questo. E poi c'è un film d'amore e d'anarchia di, non mi ricordo mai come si chiama la regista, spesso mi sfugge, che parla sostanzialmente di un anarchico che va, parte dalla campagna e va a Roma per uccidere Mussolini. Solo che poi succedono un po' di cose e fallisce. Con Giancarlo Giannini, che ha vinto anche un premio per quell'interpretazione. Non lo so, io carino, no? Cioè, non è un filmone, però dice... carino, da vedere. Da vedere, infatti, volta, sì. Infatti ve lo consigliamo, no? Anche tu. Certo, consigliamo poi qualunque cosa. Bravo, consiglio, infatti, ma ti do consigli. Infatti, ormai diamo consigli qua. E a proposito di antipsichiatria, o di psichiatria, c'è un cantante livornese che io non ho mai sentito, leggendo il nome, secondo me l'hai sentito. Forse la canzone, però il nome sicuramente mi è nuovo. Forse la canzone. Secondo me non te lo ricordi, anche perché ha poco anche recitato. È che è una persona un po' schiva, diciamo. Cioè, anche per i concerti, diciamo, non va oltre un certo raggio intorno al Livorno. Molto attaccato alla città, diciamo. Cioè, Livorno è periferia, va? Sì, praticamente. Ma per scelta, cioè, non... Cioè, chi lo vuole vedere va a Livorno. Deve andare a Livorno, sennò non lo può vedere. È stato in un paio di trasmissioni televisive, cioè, parla con, cioè, più che altro un paio di volte a Parla con me, per esempio. Nella puntata in cui facevano lo speciale a Livorno. No, in quell'occasione è andato persino fino a... Agli studi. In zona Roma o a Milano, non lo so. Parla con me, credo che sia a Roma. Gli hanno anche fatto... Cioè, Paolo Verzì ha fatto anche un documentario su Bobo Rondelli, a questo punto diciamolo. Documentario che si chiama L'uomo che aveva picchiato la testa, che prende il nome da una sua canzone, che era Ho picchiato la testa, di quando suonava con gli Ottavo Padiglione, che si riferiva a un padiglione di un manicomio, sostanzialmente. E quindi un po' mi è venuto in mente anche lui, parlando appunto di pazzia e di anarchia, che in fondo vanno anche un po' a braccetto. Sì, probabilmente sì. Per amor del cielo, o mio cuore disperato, io ti porterò lontano, via da questo buco. Per amor del cielo, saliremo su di un treno a cercare quelle stelle che ci porteranno fortuna. Dolci sono le lacrime, come pioggia che cade sugli amanti distesi che non hanno futuro, ma hanno accesso alle chiavi delle stanze più alte e ai fondali più profondi di perle di luce. Per amor del cielo, per amor del cielo. Fermare sono ritrovate e non posso non tenere, mentre mano nella mano vanno come sulle ali a migrare verso il sole e l'amore del cielo. Per amor del cielo, come un Dio che non sappiamo, è anche nostro questo cielo. O mio cuore disperato, io ti porterò lontano. Non è malaccio, però dicevo che non mi sembra che valga la pena andare fino a Livorno per ascoltarlo, ma tu mi hai detto questa è la fase calante. No, non ho detto la fase calante. No, è l'ultima fase. È la sua ultima fase, diciamo, è l'ultimo periodo. Ma allora, perché non hai fatto ascoltare qualcosa di del periodo più forte? Tipo Picchiato la terra, quella magari poi la mettiamo dopo, però secondo me questa è bella. Non dico che è brutta, non dico, dico che dovrei ascoltarlo meglio, magari con qualche altra canzone. Sì, potrebbe essere una cosa interessante. Ah, io comunque trovo. Nel frattempo salutiamo l'Insolia che ci sta ascoltando. E diciamo ci manchi tanto tu e lo zio Pippo. E infatti potete. Più che altro lo zio Pippo. Ovviamente. E infatti siamo qui a fare una versione culturale di. Del... No, di niente, non è una versione di Radio Cupe questa. No, infatti lo... è una versione Cupe di radio. Sei tu che hai questa questo strascico, no, di tu questo stavi dicendo. No, ora, ora dimmi che non è vero e no, mi finisco la rubato, birra. Come abbiamo rubato il cibo, come abbiamo rubato l'entrata, come abbiamo rubato la stanzetta, come abbiamo rubato il posto, rubare l'aria di Radio Cupe. C'era un gruppo francese. Questo non significa che noi siamo. Noi infatti non siamo in questo momento Radio. Hai sentito la sigla di Radio Cupe? Quando no. Ti avvicini. E quando mi grido perché grido. Hai sentito. Qualcuno di voi ha sentito. Cioè qualcuno di te ha sentito la sigla di, della trasmissione di Radio Cupe? No, ma no. Tu stavi e quindi, per no, dire. Non stavo per dire. Infatti, vabbè, comunque detto, archiviato questo. No, non archiviamo nulla, perché questo, queste sono illazioni verso la mia persona. Citami in giudizio e poi vediamo chi ce l'ha più lungo. Perdi, ma va bene. Entrambi abbiamo giocato a rugby, entrambi ci siamo fatti la doccia insieme. Perdi, come diceva, come spacchio si chiama, Zanardi. In Pazzo. Zanardi. Sai chi è Zanardi? È quello che guida un personaggio di Andrea Pazienza. Il male rappresentato da una persona, Zanardi. Ma no, tu sei il maligno. Los maligno. Che dovrebbe essere che manco, El. Che manco lo spagnolo, sai, però. Vabbè, ho cercato su Google Coppa dei Media. Google sti cazzi. Ma manco lo spagnolo, se c'è manco l'italiano, se vede spagnolo. Ma non l'ha caputo. In ogni caso, proprio di rubare, mi è venuto in mente rubare l'aria. Visto che la stiamo anche rubando. Mi è venuto in mente un gruppo. Ma la stiamo francese. Rubando, la stiamo consumando. Che c'è, diverso. C'è un gruppo francese, c'era almeno. Che faceva una cosa simpaticissima, secondo me. Che non vi consiglio assolutamente di fare, chiaramente lo dico per motivi legali. Una cosa particolare, cioè andavano in giro a bucare le ruote dei SUV e poi lasciavano un biglietto sul parabrezza dove scrivevano sostanzialmente che il proprietario di quel SUV sostanzialmente rubava l'aria agli altri e quindi loro se la riprendevano bucandogli le ruote. Geniale. Geniale. Sì, bello, sì. Effettivamente sì. Non fatela, o perlomeno non dite che vi abbiamo. No, non fatelo a casa. Non fatelo a casa, anche perché se avete un sub dentro casa. E gli bucate le volte, siete anche un po' pirla. Quindi. Fondamentalmente. Però. Però si può fare nel verde. Sì. No, non si può fare manco nel verde, non si fa, è una cosa che non si fa, io ve lo ripeto, non lo fate. Se lo fate, non dite che ve l'ho detto io di farlo. E in caso tagliate nella zona della valvola, così deve almeno cambiare la canna d'aria o la ruota, e non può semplicemente ripararlo. Io mi dissocio da quanto detto. E appunto, a proposito di aria, di inquinamento, eccetera, eccetera. Di fatto siamo senza soldi, quindi siamo al verde. Siamo al verde, ma non siamo nel verde. Questa è fallita. No, questa è la cosa che dovevi dire tu, che non sai come portarla avanti, quindi no, no, io l'avevo portata avanti, io l'avevo portata avanti, ma tu l'hai fatta fallire. Va bene, comunque, la sostanza è che adesso c'è una canzone. Sì. Che è di Max Gazzè. E il titolo è? Picciottime Max Gazzè. Vabbè, nel verde, no, sì, no, io sono prevenuto, guardate, come ho detto prima, sono venuto prima. Ora sono sei venuto infatti. Prima, te ne dovevi andare anche prima, comunque. Quando mi sveglio la mattina con il cerchio alla testa, l'alito è cattivo e la faccia storta. Quando mi infilo i pantaloni, la mia casa è abbandonata, non saprò mai più perché del fatto che te ne sei andata. L'uomo nasce di natura cordiale, per cui non ha bisogno di essere governato. La cattiveria è figlia delle istituzioni, senza leggi cresce solidarietà. Ancora con te ti voglio divertire, con te. Ancora con te voglio passeggiare nel verde. Accendo la TV, sigaretta nella gola, quando la PlayStation chiede al mondo di giocare ancora. Esco senza chiudere la porta di casa, piove, non ombrello e la scarpa bucata. Non esistono lavori noiosi, l'obbligo di farli ci rivela il contrario. Dalla terra si potrebbe nutrire tutta l'umanità. Ancora con te mi voglio divertire. queste, come mai? Che vuoi per secondo? Devo fare un sacco di acquisti e non ho tempo di andare in tutti i negozi, uno qua, uno là. Ma Generasmo, non sei mai stato un nuovo centro commerciale in Lana? Centro commerciale? Smaliana. No, per secondo, non ci sono mai stato, dov'è? Vicinissimo. In bocchia tangenziale, fai sotto più quadri, gira là di Simone, dopo meno di bestemmiare sei arrivato. Eh? Ma certo, Generasmo, e ci sono anche un sacco di massaggi di infoni e di promozioni. Non capisco. E allora corri al centro commerciale Madana. Sì, per i tuoi acquisti esclusivi oggi c'è il centro commerciale Madana. Madana, più di 6 ribanati per i tuoi lancetti visuali, 1420 gozzi, tutto smacco e suoli per non perdere neanche un sumo mestoso. Onti subito al centro commerciale Madana e troverai la sigla per gobbare gratis insieme a tante pistelle di manto. Il centro commerciale Madana ti aspetta in terra Manassa. Scusi, signor Vigile? Sì? Mi sa dire dov'è il centro commerciale Merana? Centro commerciale che? Centro commerciale Merana, quello con 1000 negozi. Cosa? Il centro che ti aspetta intero a Manassa. Eh? Lasci perdere, grazie. Merana, dove rodano le minette. Onti subito. Io non so cosa è successo. Cioè, non è colpa nostra. È l'angolo pubblicità, perché anche noi abbiamo bisogno di sovvenzionamenti. No, e visto che voi non ci portate il vino, cerchiamo di pagarci il vino con la pubblicità. Infatti non ci riesce, visto che stiamo bevendo birra, non essendo riusciti a trovare il vino. E anche questo è vero. Comunque è duopo fare una precisazione a questo punto. Duopo? Sì. Questa cioè, falla duopo, o no? No, no, ora. Vabbè. È duopo ora. Perché il futuro è qui, comincia. No, il futuro è qua, qui è presente. Quale? Qui? Il futuro non arriverà mai. No, il futuro perché è tu, adesso. Ogni momento che passi, adesso, ora. È presente. Dove? Al massimo vedere che è passato. No. Secondo te esiste il tempo? Va bene, comunque, no, la precisazione è molto semplice. Questa non è Radio Cupe. Eh sì, questo già avevamo detto. Sì, però c'è qualcuno che a cui è venuto il dubbio. Infatti ci chiedono di Stefania, di Vincenzo. Stai ascoltando Stefania, stai sentendo Stefania. Esatto. Stai sentendo Vincenzo. Esatto. Che cazzo stai ascoltando? Cioè. No, neanche noi lo sappiamo. Questa non è Radio Cucu, questa è una puntata assolutamente anarchica in cui si parla di anarchia, quindi è una puntata autoreferenziale in questo senso. Sì, e quindi dal significato recondito. Questa la può capire solo chi ci ascolta da almeno mezz'ora. E da chi si ricorda quello che abbiamo detto mezz'ora fa, più che altro. Perché noi non ce lo ricordiamo. Io completamente, sinceramente. No, proprio è flusso di pensiero. Cioè noi. Sì, è un flusso. Abbiamo fatto un bel flusso. Ma io lo dovrò fare tra poco. Con questa birra prima o poi devo anche finire. No? Quindi stavamo dicendo con maggior forza, questa non è Radio Cupe, il nome di questa radio non c'è perché noi non vogliamo definirla, perché non è neanche una radio. Noi stiamo occupando uno spazio. Abbiamo rubato uno spazio. Lo stiamo occupando. Cioè proprio è un atto politico il nostro. È un atto di rivendicazione di polluzione notturna o meno che sia, di transmissione che ci porterà un giorno a Diana. Da già non andiamo nei negozi. Ovviamente quello che dice, certo. Sì, chiaramente, perché poi è Fantiba. Certo. Come a 60 anni. 60 anni? A 60 anni, sì, talco, il problema sì, talco, già 60 anni è una zona di talco. Sì. Potremmo metterla. Talco prende di boro. Sì. Però invece metteremo una canzone delle osterie. Una canzone allegra di Fuori Porta. Sì, una canzone che parla di osterie, quindi vino. Si è dimenticato quindi 01. Va bene, metto la canzone e poi ti picchio dopo. Aperte come un tempo le osterie di Fuori Porta, ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per età, qualcuno perché è già dottore, e insegue una maturità, si è sposato, fa carriera ed è una morte un po' peggiore. cadono come foglie o gli ubriachi sulle strade che hanno scelto. Delle rabbie antiche non rimane che una frase o qualche gesto. Non so se scusano il passato per giovinezza o per errore, non so se ancora desto in loro, se mi incontrano per forza la curiosità o il timore. Io mi alzo tardi tutti i giorni, tiro sempre a far mattino. Carte, poi il caffè della stazione per neutralizzare il vino. Ma non ho scuse da portare, non dico più d'essere poeta, non ho utopie da realizzare, stare letto il giorno dopo è forse l'unica mia meta. Alza sempre lenta come un tempo l'alba magica in collina. Ma non provo più quando la guardo quello che provavo prima. Ladri e profeti di futuro mi hanno portato via parecchio. Il giorno è sempre un po' più oscuro, sarà forse perché storia, sarà forse perché invecchio. Ma le strade sono piene di una rabbia che ogni giorno urla più forte. Son caduti i fiori, hanno lasciato solo simboli di morte. Dimmi se son da lapidare, se mi nascondo sempre più, ma ognuno ha la sua pietra pronta, e la prima non negare me la tireresti. Sono più famoso che in quel tempo quando tu mi conoscevi. Più amici da un pubblico che ascolta le canzoni in cui credevi. E forse ridono di me, ma in fondo la coscienza pura. Non rider tu se dico questo, ride chi ha nel cuore l'odio e nella mente la paura. Ma non devi credere che questo abbia cambiato la mia vita. È una cosa piccola di ieri che domani è già finita. Son sempre qui a vivermi addosso, ho dai miei giorni quanto basta, ho dalla gloria quel che posso, c'è qualcosa che andrà presto quasi come i soldi in tasca. Non lo crederesti, ho quasi chiuso tutti gli usci all'avventura. Non perché metterò la testa a posto, ma per noia, per paura. Non passo notti disperate su quel che ho fatto, quel che ho avuto. le cose andate sono andate ed ho per unico rimorso le occasioni che ho perduto. Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta, ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per formarsi, chi per seguire la ragione, chi perché stanco di giocare, per il vino sputtanarsi ed è una morte un po' peggiore. In teoria, ma non in pratica, parlando di anarchia, si dovrebbe anche parlare di, secondo me, quantomeno di situazionismo. Il problema è che il situazionismo non esiste, dipende dalla situazione, appunto. Bravo, l'hai schiacciata, ma... dovevi schiacciarla invece. Perché noi non siamo pro zanzara. No? Io no? Tu? Secondo me tutti gli animali devono morire. Ma questa potrebbe essere un'idea. Dipende da quanto è grande la griglia. Perché fanno puzza, sono sporchi, sono... Ripeto, dipende da quanto è grande la griglia. Facciamo un movimento anti-animalista. Un movimento anti-animalisti sarebbe più interessante, secondo me. Sì, perché il problema non è sono anti-vegano. L'odio per gli animali non ti può derivare dagli animali, ma dagli animalisti. E gli animali si fa i cazzi so. Cioè, dalla situazione hanno paura, sono, oppure no, e quindi si fanno i cazzi so. Sono gli animalisti il problema. Mi sento abbastanza d'accordo. E allora, visto che sono abbastanza d'accordo, penso che ti dedico una canzone. Addirittura. Sì. La canzone è Noi siamo gli asini, appunto. Perché stiamo parlando degli animali. Sì, più o meno sì. Deriviamo da Adamo. Deriviamo da, da... quantomeno secondo qualcuno. No. E invece no, sbagli. Deriviamo da una tribù messa lì in prova che non doveva andare a pescare di sabato. Cioè, mi vai a contestare da Medeva e poi mi dici: no, Dio creò la tribù e gli disse: non andare a pescare di sabato. Porca puttana, vabbè. Ma comunque. E poi siamo noi gli asini. O i pazzi. Sì, siamo noi i pazzi. Che continuiamo a mettere canzoni da YouTube. Siamo radio contro voi tutti, siamo vecchi pure per l'ospizio. Giusto? No? Sì, dici? Anche perché sembra un po' di merda, sinceramente. No, infatti. E quindi, con un colpo da maestro, noi cambiamo subito link. Cosa? Noi siamo una testa senza giudizio, siamo una scimmia senza cervello, siamo la fine senza l'inizio, siamo il becco ma senza l'uccello. Siamo una guerra senza armistizio, siamo la falce senza il martello, siamo la chiave senza la porta, siamo una bella natura morta. Noi siamo gli asini, noi siamo i matti del manicomio. Siamo buffoni, siamo pagliacci, siamo vestiti di pezzi e di stracci, siamo pagliacci, siamo buffoni, col cazzo fuori dai pantaloni. Facciamo ridere tutta la gente, ci abbiamo in bocca soltanto un dente, ma se facciamo troppo casino ci attaccano subito alla corrente.

e le fa conoscere, però diciamo che in tema ci starebbe anche, volendo, Volterra, il festival di Volterra dei detenuti del carcere, però vabbè, questo magari poi ci prepariamo, ne parliamo un po' più compiutamente prossimamente. Nel frattempo, non nel frattempo che ci prepariamo, nel frattempo di niente, sostanzialmente, stando in tema di niente, manicomi pazzi, sì, che ci stanno molto cari, infatti ci hanno appena dato dei capi dei pazzi. A te, ah, sì, tu sei il capo dei pazzi, io sono soltanto un pazzo capi... subordinato. Tecnicamente, essendo una trasmissione anarchica, qui non c'è subordinato e subordinatore, quindi se io sono capo, sei capo anche tu. C'è una cosa, c'è un incontro di hackers in Italia, gestito da una comunità anarcoide, anarchica, non so come chiamarla, che dove praticamente, sì, pazzi, veramente, ma c'è gente che veramente ha, non lo dicevo così, a tutti gli estremi, no? per essere definita tale, che praticamente quando fanno le magliette per poi venderle durante l'evento, per finanziare l'evento, quantomeno fino a un paio d'anni fa, ora se lo sono dimenticato, però glielo ricordo ora in mia invista, c'era il logo davanti, una scritta, qualcosa, e poi dietro c'era scritto staff. Che quindi, cioè, che stava a significare che tutti quanti quelli che erano là dentro, cioè comunque erano, facevano lo staff, erano tipo l'alberce spagnolo, cioè porta ciò che vuoi trovare, cioè, tu arrivi lì e non c'è un capo, non c'è un'organizzazione strutturata quantomeno, ma c'è un'organizzazione anche abbastanza seria che porta avanti questo incontro da 14 anni, qualcosa del genere, 12 anni, no, comunque più di 10 anni, ma sì, e non è poco, e non è poco. E in maniera assolutamente spontaneista, orizzontale e tutte queste cose fricchettone che piacciono tanto ai giovani. Ditevi perché. Quindi, e per rimanere in tema di pazzia, per rimanere in tema di pazzia, ti faccio ascoltare una canzone un po' più vecchia dell'artista di cui poc'anzi abbiamo parlato, che tu non hai avuto modo di apprezzare, secondo me. Allora, ma Natale, se può essere così, lo apprezzo in maniera maggiore. Ascoltiamo questo pezzo. È possibile. L'artista è sempre, cioè, il cantante Bobo Rondelli, però qui sono gli Ottavo Padiglione, appunto, con la canzone Ho picchiato la testa, che è esattamente quella di cui abbiamo parlato prima. Abbiamo ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non sono più normale. Ho picchiato la testa, lasciatemi dormire, apriti mango, è pronto da mangiare, ma se lei chiamerà, mandatemela di qua. È perché sono malato, tutti mi tormentano, è perché sono sbagliato, tutti ne approfittano. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p parole, così in questo stato non posso lavorare, perché ho picchiato la testa, non sono più normale, non sono capace di perdere volere, ma se lei chiamerà andatevela. Siamo tornati qui mentre l'uomo unghio sta cercando un qualcosa che non ho ben capito, perché qua, pur essendo soltanto in due, appena parte una canzone finisce la comunicazione fra di noi, quindi mi ha fatto segnale parla di qualcosa e io vi sto raccontando questo in attesa che lui dica qualcosa di più intelligente di quello che sto dicendo io, che sicuramente non mi fotterà un cazzo. E infatti mi bastardo si ride, io si ride. Io volevo dare un primo consiglio. Far culo. Noi vogliamo. Volevo dare un altro consiglio. Tu stasera sei molto consigliatore. Sì. Sei un consigliere. Sì, a proposito sempre di anarchia. Cioè di andarvi a cercare un libro di Hugging Bay. Personaggio un po' controverso in realtà, secondo alcuni, dove si parla delle TAZ, le zone temporaneamente autonome, che sono un po' quelle da cui poi sono nati anche in un certo senso i rave o anche eventi come il LAC Meeting, che è l'evento di cui abbiamo parlato prima, che per quest'anno si svolgerà a luglio. A giugno, scusate, l'ultimo fine settimana, se non ricordo male, comunque su hackmeeting.org trovate tutte le informazioni, a Firenze. Zona temporaneamente autonoma, che è un concetto un po' che non riuscirei sinceramente a esprimere, come tanti in realtà di quelli che ho in testa. Quindi vuoi chiederlo a me, così faccio visto che non la so esprimere anch'io, me non fai male con bassa. No, il consiglio appunto è quello di andarvi a cercare questo libro di Hugging Bay, dove si parla appunto delle TAZ. Voi cercate Hugging Bay su internet, lo trovate abbastanza, cioè è un libro chiaramente che trovate a gratis, distribuito un po' dovunque. C'era un collegamento, io vi giuro che c'era un collegamento quantomeno mentale tra quello che ho detto e il prossimo gruppo, che non sto manco più trovando, anche perché non chiudi le canzoni che abbiamo ascoltato, quindi vai avanti e indietro sulle stesse canzoni che abbiamo ascoltato, quindi no. Che scena pietosa, ragazzi, meno male che non lo potete vedere. Sento un criceto con la ruota. Ma le chiudi quelle cazzo di finestre! Hai presente il criceto che gira sulla ruota sperando di andare avanti, ma in realtà non ci riesce. Lui è convinto che cammina, ma è un po' come un'utopia, no? Che è come l'orizzonte. È come l'orizzonte. Cos'è l'orizzonte? È una linea immaginaria. Tu cammini tre passi e l'orizzonte si allontana di tre passi. Cammini dieci passi e l'orizzonte si allontana di dieci passi. Quindi l'orizzonte è qualcuno che ha poco di te? Sì, perché non ti lavi probabilmente. Lacrime e sangue, i fluxus. Yeah. Sembra importante dire è che anche noi siamo d'accordo che se avessimo dovuto andare non saremmo qua, sì, sicuramente. No, non è questo che mi proviamo a dire, quanto io ero sicuro quanto il fatto che durante la canzone si è sentito un beep. Sì, allora questo beep copriva la frase "santa emorragia piena di grazia", quindi è censura. Non è censura, ma in realtà il beep è stato messo dal gruppo direttamente sul questa parola su emorragia, su santa beep piena di grazia, proprio contro la censura. Quindi è, diciamo, un atto di denuncia. In un certo senso sì. Che mi pare che state dicendo? Beh, vabbè, no, è interessante comunque. Cioè, no, questo era no, un po' per sempre, tornare no, in un certo senso al situazionismo. Delle chicche interessanti alla fine, che la gente non ci fa a caso, ha detto quel beep potrebbe essere stato un problema tecnico, un problema audio, che è anche un problema tecnico, appunto, in quanti se ne saranno accorti. Diciamo tutti, solo io ho supposto che si cosa accorgeva, per questo sto parlando più piano così non mi ascolto. Tanto non ti ascoltano lo stesso, non ti preoccupare. E di questo sono molto felice, ma altrimenti. Anche loro. Sono molto contenti. Siamo tutti felici. Siamo tutti felici, siamo tutti qui riuniti in attesa che il film finisca. Questo film che diciamo che. Oh, sta qua ci rompere i coglioni, pur non vedendo. Sì, perché questo film sta durando da 2 ore e 5 minuti, quindi in teoria dovrebbe, perché se non sbaglio era 125, quindi in teoria sta finendo adesso. Anche se in teoria è iniziato un po' prima dall'inizio della registrazione, quindi è più di 2 ore e 5 minuti. Sì, quindi forse aveva ragione qualcun altro che diceva che durava 2 ore e mezza, e quindi mi dispiace per voi, ma dovrete sorbirci per un'altra mezz'ora. Ma soprattutto io non ho capito come hanno fatto a non fare una pausa per questo film. Forse perché nessuno si voleva spostare, visto che erano due coglioni quanto una casa, e quindi era male a spostarli fuori per sgangrissi un po' le palle a questo punto. No, sei maligno al solito. La questione è semplice: il signor Castro deve timbrare l'uscita entro mezzanotte, perché sennò non gli conta, cioè non è come se non fosse mai uscito dall'università. E allora e quindi manderebbe una squadra di ricerca a cercarlo. Sì, e che ci starebbe anche assai, visto che è una persona molto silenziosa, molto minuta, anche che cioè è facile da scoprire. Cioè, il signor Casco dovrebbe chiedere aiuto. Dovesse. Ma dovrebbe sì. Farlo. Aiuto. Sì, non sarebbe molto complicato, anche perché tu passi, cioè anche se lo vedi, cioè non lo capisci perché non per ma, cioè è una persona che proprio è la persona più come si può dire, più la persona più del mondo. Più del mondo, sì. È più del mondo. Ha il mondo in sé. E non se ne accorge. Perché mi guardi così? Potrei eccitarmi. È proprio questo, guardo così. Tra l'altro, un altro dei temi classici dell'anarchia è proprio questo. Cioè la liberazione del corpo. L'eccitamento. L'eccitazione. Beh, sì, se vogliamo metterla così. No, il fatto che ad esempio i Flux prima, cioè, sono leggermente anticlericali, volendo, perché sostanzialmente quello che si vede è un controllo proprio sulla vita sessuale delle persone, tesa a un controllo della vita stessa delle persone, che era un po' anche la tesi di William Reich, se non sbaglio, che era un sociologo tedesco che riconduceva i nazisti a sesso repressi, sostanzialmente. Troppa cultura stasera, picciotti. E sai perché? Cioè io tutte queste cose le avevo dimenticate, le avevo sopite, le avevo messe ma in grazie cassetto. A quest'atto politico di stasera le hai tirate fuori dal cassetto. No, quest'atto politico è venuto fuori da un evento scatenante. Da un incontro. Quindi in teoria la canzone che dovrei mettere non è quella che sto mettendo, ma dovrebbe essere Incontro. No, Incontro, meglio questa secondo me. Decisamente, anche se è un po' avvelenata. Sì, è un po' avvelenata, però mi piace per questo. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi 4 soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia. Però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni,

Io in questi momenti non c'ero. Mi no, escludevate no, questi giochi di carta, non sinceramente. È vero, tu c'eri. No, mi escludevate. Quindi. Quindi niente, va bene. Noi abbiamo adesso una canzone che passiamo ultimamente, non dico spesso, però. Però c'è quasi ogni trasmissione, perché è una bella canzone e la sentiamo vicino a noi. Sì. Ma che bene venia, sgrato sotto tato, tu scrivo il nostro animus. questo cos'era? Quello che mancava a noi questa sì, sera. Chiaramente. Un bonus. Sì, e molti se ne sono accorti. No, questo era uno dei Carmine Burana musicati da Daniele Serra. Carmine Burana che quasi tutti conoscono, quantomeno per l'opera teatrale di Carl Orff. Con due F. Mann non c'è. È una R che tu non chiaramente. Infatti per così aggiungevo Mann, perché visto che quando mancava una lettera aggiungevo un'altra cosa, fondamentalmente. Sì, fondamentalmente per contegno. E un altro dei temi cari all'anarchica stirpe, quale può essere? Quello della risata. Una risata vi seppellirà, no, quella è una risata ci seppellirà, perché noi l'abbiamo invertito questa sera. Cioè sì, però no, quello che intendevo era invece l'antimilitarismo. Oh? Sì. Niente? Proprio... No. Va bene, allora ti consiglio un libro. Ti consiglio un libro, l'ennesimo libro di stasera. L'ennesimo libro di stasera è Opinione di un clown, di Irish Bond. Dove? Che non è per di James. Che non è? Niente. Spero che almeno loro l'abbiano capita, perché io no, spero che almeno loro l'abbiano capita. Non l'aglio. Tagliere l'aglio taglia. Non tagliare dove. Dove devi fare? Scegli lingua tu prima di andare in radio. Non puoi farlo. 33 30. No, non lo puoi fare. Va bene. Scusami se ti ho detto questa cosa. No, prima di un clown è sostanzialmente la storia di un clown che ha delle opinioni. Stranamente, che ha delle opinioni. È una storia veramente triste. Io odio quest'uomo. È una storia veramente triste. Te lo dico. Così uno non parte col cuore allegro, ma già col cuore preparato alla tristezza. Sì, sì. Che diciamo si svolge su due piani. Cioè, c'è il presente di questo clown. Disperato perché è stato lasciato dalla moglie, sì, credo fossero sposati. Disperato perché era stato lasciato da Maria, e quindi comincia il suo declino, perché un clown disperato, diciamo, un clown triste è una cosa, un clown disperato è un'altra cosa. E i suoi ricordi della sua famiglia, della sorella che durante la seconda guerra mondiale la madre aveva spinto per farla arruolare nell'esercito tedesco, appunto, e che non farà ritorno, chiaramente. È una storia veramente tristissima, però anche molto bella, nella mia opinione. E ti consiglio di leggerlo. Lo faresti affascinato, secondo me. A me è piaciuto molto. Per questo ci sei rimasto. Sì, ho quasi pianto. Addirittura, sì. E sappiamo benissimo che tu non sei un uomo sentimentale. No, sei un uomo cinico e freddo. Esatto, no, freddo no. Perché la tua cassa col povero, essendo grande, cioè no. Girare con la magliettina a dicembre, voglio dire, non penso di essere un uomo freddo. Ti posso dare una notizia? È arrivata un'ansia proprio adesso. È finito il film. Finalmente. Sì, capisce dalle interferenze sonore che arrivano che sono variate da sotto a sopra. Non è più colonna sonora, ma è proprio vociare di gente che sistema. Un vocio con scodella, ma non apre. Poi se volete salire, noi siamo qua. E a proposito, appunto, di Irish Bond. Più altro dovete chiudere, ricordatecelo. Cioè, fate il ciaspe a meno. A proposito di Opinione di un clown, noi abbiamo un contributo audio dedicato ai clown di Mannarino, il pagliaccio. Giocoleri numero uno. Oggi sto e mo non so nessuno. Giocoleria numero 20. Mi sono rimasti quattro denti. è grave. Sono un pagliaccio, lavoro col sorriso. Ma è meglio una mezza risata vera che una dentiera tutta intera. Certi colleghi. Il mio è un lavoro a perde, a farsi male. Se uno casca per la strada certe scene. Portate i sali, portate i tabacchi, portate i cerotti. Se casco io, niente cerotti, niente lutti, mi battono le mani. Ridono tutti, belli e quel signore, col cappio al collo, che dice in giro che è una cravatta. E quella signorina, biondina, carina, col macigno sulla schiena, che dice in giro che è uno zainetto. Signorina, c'hai 40 anni. Lo sanno tutti che le scuole le finite da un pezzo. Cambia scusa, scusa, cambia scusa, scusa. Non ci posso fare niente. Come qualcosa va storta o va perduta, mi esce fuori una battuta. Pronti? Sono un pagliaccio, faccio quello che faccio, non mi impiccio nell'impaccio, sono impicciato. Se me spaccio per il carpaccio. Sono un pagliaccio da quando raccolsi un nudo bruco, un verme della nuda terra, e lo diedi alla nuda contorsionista, che lo ha preso, lo ha infioccato, lo ha contorsionato, e il nudo bruco è diventato un farfallone. Lo porto sempre al collo il farfallone, oggetto tessile della mia sicurezza, sintomatico orpello del pagliaccio sicuro, ve vestifero, versi. Metti caso, so sicuro. Metti caso fanno un attacco chimico, biologico, batteriologico, aerografo. Metti caso, c'ho la palla sopra il naso. Metti caso, una mia amica tanto buona, tanto cara, tanto amica, parta per l'ultimo viaggio, mi venga a dare l'ultimo addio, tutta commossa, gli do la mano con la scossa. Non piagne, che fa cortocircuito, ridi, ridi, devi ride. Passa un leone, c'ho lo scarpone, passa un uccello, c'ho il cappello, falla, c'ho il cappello, sono un pagliaccio, mica un pello. E quella volta che la nuda contorsionista se n'è andata, nuda, a giocare con la proboscide del domatore d'elefanti, mi sono passato un po' di trucco e ho tirato avanti. Solo sorrisi, tutto lo spettacolo, non una lacrima, non un dolore, al massimo qualche spruzzatina d'acqua del fiore di plastica che c'avevo sopra il cuore. Sono insensibile, sono razionale, sono amorale. Signori miei, io non posso piangere per questioni di sicurezza nazionale. Se mi metto a piangere io, se io mi metto a piangere, se io mi metto a piangere io, s'allagherebbe tutta Roma, ti porterei in gondola a Piazza Navona. S'allagherebbe pure il deserto e la Sfinge nuoterebbe in mare aperto. S'allagherebbe sommerso, salagherebbe il paradiso col pianto mio. E son pagliaccio, mica Dio. Dicevo che Mannarino lo sto rivalutando ultimamente, che prima non lo so, è un po' prevenuto anche adesso di lui. Però... Per il nome più che altro. Sì, per il nome più che altro, cioè il nome non mi sconquinque. Tu che non mangi frutta. Non mi sconquinque, va, fondamentalmente. A me sconquinque. Vabbè. Cioè, spinzillacca. Ognuno va le sue sconque. Infatti. Niente, però devo dire che questa canzone è molto bella, ma mi ha anche rattristito. Perché in fondo ci può essere un pagliaccio dentro ognuno di noi. Sì, in realtà io... Vabbè. Antimilitarismo che comunque non vuol dire. Sì, no, alla fine, cioè, secondo me quello del clown non è umorismo, cioè direi più ironia in un certo senso, che comunque appunto non è un umorismo ma di tristezza una versione. Cosa avrà voluto dire? No, ti stavo ascoltando completamente. Grazie, mi fa piacere. In un attimo solo a pensiero. No, appunto, diciamo il tema appunto dell'antimilitarismo comunque non deve fuorviare, perché cioè cosa che molti non ricordano, non vogliono ricordare o non sanno alcuni, è che l'antifascismo e soprattutto anche la lotta partigiana è stata portata avanti anche da brigate anarchiche. Sì, diciamo che era un tutto un movimento anche eterogeneo, va. Sì, c'erano anche i democristiani, proprio quelli che poi sarebbero diventati i democristiani. Quindi c'era anche un po' di tutto e di più. Sì, tranne di fasci, cioè quelli non c'erano. Sì. Perché c'erano, facciamo un fascio, sì, appunto per questo. Dalla parte sbagliata, diciamo. E a loro dedichiamo la prossima canzone. La prossima canzone, che è? Siamo i belli della montagna. Fiera. Siamo i ribelli della montagna, di grandi stenze e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, di grandi stenze e di menti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della vita. Che il discorso fosse finito così, ma in realtà era un po' più articolato. E partiva da cosa? Partiva da un film. Da un film che tu ti sei dimenticato di dire il titolo qual era. No, no, no, il film è. Te l'ho detto? No. Tu mi hai detto. Mi sono dimenticato del film. Hai detto, interrompi la canzone e dire del film. No, lo dico dopo. No, ma non ho detto che mi sono dimenticato del film, ho detto che tu mi hai interrotto il flusso di coscienza e hai fatto sì che io mi dimenticassi di questa cosa. Ma io credo fermamente nel fatto che gli errori servono a darti il modo di riparare. Questo me lo sono inventato sul momento. Però in piena linea con la profondità della serata, visto che sì, oggi sei abbastanza profondo. E quindi ora puoi riparare al tuo errore, visto che non è stato tu quello mio. Sì. Dicendo il titolo del film che non so perché tu non mi hai. Se dici poco più forte lo sento anche loro. La rivoluzione sulla tua cavalli. La rivoluzione sulla tua cavalli. Con la perla dalla due cavalli. Lucio. Che è un film che parla di. Dario, tu l'hai visto La rivoluzione sulla due cavalli? Parlaci di questo film. Questo film che parla di sta bottana che si tromba un portoghese ma si tromba con un italiano e poi scoppia la rivoluzione in Portogallo e partono solo due cavalli per andare in Portogallo. Si tromba assieme, se proprio dobbiamo. Sì, pure, sì. E poi fanno la rivoluzione. Quindi la rivoluzione nasce da una tombata. Sì. Sì, però la scena che io mi ricordo più. Allora, messa così il flusso di coscienza era si era un attimo intoppato. La scena che ricordo con più veemenza con più, è quella dove il nonno del portoghese, a un certo punto loro, quando finalmente riescono ad arrivare in Portogallo, c'è il nonno del portoghese che esce dalla sua casa col fucile in mano e comincia a sparare alle campane della chiesa. Ah, vero, sì, io ricordo questa scena fantastica. C'è scena, sì, memorabile. E invece cos'è questa cosa? Era il mio telefono. Non si portano i telefoni in radio. Però parlando di, cioè di mettendo assieme Dario e radio, abbiamo svelato dove siamo? No, no, perché non stiamo parlando di quale Dario. Perfetto. Certo, non hai detto dove siamo all'Arci, no? No, no, non siamo all'Arci. No, infatti non siamo all'università. Non siamo all'università. Sì. Sì, okay. Sì, un'università blu. Un'università bassa. Io mi devo portare un po' di strumentazione, sto partendo per Corleone. Bravissimo, allora noi mettiamo un attimo Dai Monti di Sarzana di Eugen, che è sostanzialmente l'inno della Brigata Lucetti. Una brigata anarchica, poi te lo spiego. Ricordare anche di un altro film di cui non ricordo. Funziona? Penso che faccia falso contatto qua sotto. Però un film che fa falso contatto. Sì, di cui non ricordo il titolo, dove c'è che parla della rivoluzione messicana, dove a un certo punto c'è un rivoluzionario messicano che alla fine della rivoluzione devono riconsegnare le armi e c'è lui che dice: salve, io ho rubato questo fucile all'esercito. Ora lo devo riconsegnare all'esercito. Quindi io non ho capito. Ha vinto la rivoluzione? Ha vinto l'esercito? Chi ha vinto? Effettivamente è una domanda non banale, va? No, probabilmente no. Va bene, io penso che abbiamo terminato il nostro discorso. Dario ha terminato pure di rubare quello che doveva rubare e se n'è andato. E quindi possiamo salutare. Ah, domani c'è sta diretta, perché sennò non ha un senso. Sì, vi ricordo che domani vi ricordo, non so a chi, però alle vi ricordo 11, che domani alle 11 è di sera Caravana Antimafia. Questo è quello che mi è arrivato all'orecchio. C'è una diretta da Corleone, penso della Caravana Antimafia. Ah, abbiamo Lanza. Il volo antico. No, Lanza in realtà è riferita a un'altra cosa, non a quello di cui stavamo parlando. È riferita al referendum del 12 e 13 giugno, dove vi invitiamo a votare sì. Dandovi invitiamo a votare. Andate a votare. E poi, se votate sì, sarebbe cosa buona e giusta. Eh confessare, attendi a quando Valentina te vi dico che sono delle persone cattive, vi dovete confessare. Noi siamo delle persone cattive e fanno bene a dirci che siamo delle persone cattive quando volantiniamo, anche se non volantiniamo, perché siamo un po' più cattivi. Sì. E lo siamo attinghite con una motivazione. Ciao Rodolfo, ciao Carlo, ma soprattutto ciao a chi non ci ha ascoltato. Ciao a Rossella che qui ci guarda e non favella, che fa anche rima. Però ci guarda, quantomeno non ci ascolta, ma ci guarda. È già qualcosa, no, diciamo. Ascolto, qualcosa. Non favello, salutiamo tutti quelli che hanno avuto il coraggio di vedere questo film. No, no, no, di riguardare due ore e mezza di film seduti senza una pausa, senza speranza. Il gesto di Rossella è abbastanza eloquente. E detto questo, vi auguro una buonanotte. Fa un culo a tutti. Oltre il ponte. Ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza è la nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo vent'anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A vent'anni la vita è oltre il ponte comincia l'amore. Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovraumano, corri a passi, dai balza avanti, ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano, dietro il tronco il cespuglio il canneto, l'avvenire di un mondo più umano è più giusto, più libero e lieto. Oramai tutti a famiglia hanno figli che non sanno la storia di ieri, io son solo e passeggio tra i tigli.